5C. Ascolta e rispondi. A lei è mancato il tempo? Sì, le è mancato il tempo. A lei è mancato il denaro? Sì, le è mancato il denaro. A lui è mancata la voglia? Sì, gli è mancata la voglia. A lui è mancata la calma? Sì, gli è mancata la calma. A voi sono mancati i soldi? No, non ci sono mancati. A voi sono mancati gli esempi giusti? No, non ci sono mancati. A voi sono mancate le parole precise? No, non ci sono mancate. A voi sono mancate le possibilità? No, non ci sono mancate.